La morte è sempre un evento drammatico. È vero che tutti siamo consapevoli che nulla è duraturo, che prima o poi la morte colpisce ogni essere nel quale vi è un alito di vita, ma quando questa succede prematuramente e all'improvviso come un incidente o una malattia, non si può che rimanere scossi. Se poi la morte è il prodotto di un atto cruento dell'uomo, allora questo atto promuove uno sdegno senza limiti. Nessun essere vivente ha il diritto di togliere la vita ad un suo simile, a meno che non occupi un posto di autorità che gliene conferisca il diritto. Noi siamo talmente abituati a sentire eventi drammatici di morte, che oramai questa è diventata una delle tante notizie, siamo talmente abituati a leggere cronache e libri che parlano di assassini che non ci toccano più di tanto. Questo atteggiamento purtroppo lo si ha anche nei confronti della parola di Dio. Quando leggiamo episodi di persone che uccidono i loro simili, e di questi episodi ce ne sono molti. Vi è però un episodio di una morte cruenta prodotta dall'uomo ai suoi simili in una parabola, che fa rimanere sconcertati e che prendiamo in esame. L'episodio è raccontato nella parabola delle nozze. E Gesù, riprendendo la parola, di nuovo parlò loro in parabole dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio, e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati. Alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi, dicendo: «Dite agli invitati: ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli e i miei animali ingrassati sono ammazzati, ed è tutto pronto, venite alle nozze». Ma essi, non curandosene, se ne andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi, presi i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. Matteo 22:1-6. Gesù ha raccontato questa parola per dimostrare l'assurdità di certi comportamenti e per fare questo ha ambientato il racconto nel corso di uno tra gli episodi più belli dell'esistenza umana, cioè un matrimonio. Dunque, un re decide di invitare alle nozze di suo figlio alcune persone. Dato però che al tempo di Gesù non vi erano i biglietti di invito al matrimonio spediti per posta, il re manda i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze. I servi vanno ad uno da queste persone e a voce presentano l'invito del re. Ma queste persone non vollero venire. Il re non si scoraggiò e, dato che ci teneva che gli invitati fossero presenti al matrimonio di suo figlio, manda altri servi, forse più ragguardevoli e convincenti. Nonostante che il re avesse spiegato agli invitati che tutto era pronto, che non dovevano portare nulla, che dovevano solo presenziare alle nozze, alcuni invitati rifiutarono l'invito e continuarono a svolgere le loro normali attività. Per loro le nozze del figlio del re non costituiva un evento al quale dover prestare attenzione, tempo e presenza. Altri invitati, invece, si misero a schernire i servi mandati del re, mentre altri ancora li uccisero. Notiamo, gli invitati uccisero i servi del re. Cosa avevano fatto questi servi per meritare la morte? Qual era la colpa così grave da meritare la morte? Che azione sbagliata avevano commesso i servi del re nei confronti degli invitati? Li avevano maltrattati, derubati, niente di tutto questo. I servi del re avevano semplicemente riferito le parole che il loro signore aveva ordinato. Ma anche nel solo riferire le parole del loro signore i servi del re, forse avevano offesi gli invitati, avevano forse detto delle parole dure e spiacevoli, niente di tutto. Questo, i servi del re avevano semplicemente riferito che potevano andare a nozze perché tutto era pronto. Questa era il loro capo di accusa, questa era la loro colpa, colpa che del resto non era neppure loro, perché l'invito di andare a nozze non era stata una loro iniziativa. I servi del re erano stati semplicemente ambasciatori, e un ambasciatore può mancare solo quando non riferisce esattamente ciò che gli è stato ordinato. Ma i servi del re avevano riferito esattamente e solamente l'invito del loro signore, e poi erano pronti a tornarsene a casa. Ma non è bastato per gli invitati, i quali non solo hanno offeso qualche servo, ma addirittura ne hanno anche uccisi. Incredibile, ma Vero, degli invitati hanno ucciso degli innocenti e ubbidienti servi solo perché avevano riferito loro. Una buona notizia, solo perché li avevano invitati a nozze. Non ci sono attenuanti. Anzi, il comportamento degli invitati mostra una maggior condanna. Un giorno Gesù disse: «Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie». Giovanni 7:7. Gli invitati a nozze non avevano nulla contro i servi del re. Non potevano avere nulla. Ma gli invitati uccisero i servi perché odiavano il loro re e suo figlio. Ma non potendo esprimere il loro odio vero la casa reale, gli invitati se la presero con i servi fedeli che avevano solo umilmente e fedelmente riferito le parole del loro signore. Questo episodio, questo odio, questo modo di procedere ormai costituisce una consolidata usanza nei confronti del regno di Dio. Da sempre i fedeli servi del Dio Trino hanno annunciato la più bella notizia che una creatura possa ricevere. L'apostolo Giovanni ne scrisse l'episodio nel libro dell'Apocalisse. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le veraci parole di Dio. Apocalisse 19:7-9. Un giorno ci saranno le nozze del figlio di Dio con la sua sposa, che Giovanni vede simboleggiate nel matrimonio dell'agnello. Si sa che gli agnelli non si sposano, e perciò è evidente che l'agnello rappresenta il figlio di Dio morto come un agnello sacrificato per il peccato. E il matrimonio del figlio di Dio con la sua sposa è anch'esso un atto figurato? No, il matrimonio di Cristo Gesù con la sua sposa, cioè la Chiesa, sarà reale. In quale modo? Com'è possibile che in cielo vi sia questo matrimonio? Com'è possibile che il figlio di Dio si sposi? Il matrimonio del figlio di Dio con la Chiesa è possibile solo se si rispettano i ruoli di relazione. Cristo Gesù è figlio di Dio non per nascita ma per relazione. Come in seno alla Trinità, Cristo è figlio in quanto ha relazione con il Padre e la persona dello Spirito Santo, così la Chiesa, cioè la sposa di Cristo, è tale in quanto ha relazione con il Figlio di Dio. Come una sposa ha un'intimità, una relazione intima senza eguali con lo sposo, così la Chiesa ha e avrà una relazione intima che non ha pari con il Figlio di Dio. Questo è l'annuncio del Vangelo. Questo è il messaggio che è dato a tutti gli uomini. L'invito di far parte alle nozze dell'agnello è rivolto a tutti, come il re aveva fatto a tutti, l'invito di partecipare alle nozze di suo figlio. Nonostante questo bellissimo invito, gli uomini preferiscono dare precedenza e occuparsi delle cose della vita, altri scherniscono i portatori di questa bella notizia, altri ancora uccidono chi annunzia loro il Vangelo di Cristo. Migliaia di persone sono state violentate, schernite, disonorate, torturate, uccise, bruciate, impiccate, decapitate, solo per aver commesso la colpa di riferire le pure parole di Dio. L'odio non era rivolto a loro, ma al loro messaggio e al mandante. Alcune persone, alle quali avevo annunziato l'Evangelo e lo avevano ricevuto e creduto, mi hanno confidato e confessato anche pubblicamente di avermi fortemente odiato. La ragione era che dicevo la verità, una verità che essi non volevano sentire. Avrebbero voluto sentirsi dire che erano delle brave persone, che erano degne di andare in cielo, che quello che facevano di male era giusto, ma per essere fedele al messaggio di Dio non potevo dire quelle cose. O ero fedele al messaggio di Cristo e mi attiravo odio, o cercavo la loro approvazione e non ero un servo fedele. Nessuno può essere fedele a due padroni. Se si ama uno si deve per forza odiare l'altro. Come i servi del re, che invitavano tutti alle nozze di suo figlio. Se i servi avessero parlato diversamente, avrebbero odiato il loro signore, ma poiché lo amavano sono stati uccisi. Ma la parabola non termina con l'uccisione dei servi. Essa continua dicendo: Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per incendiare la loro città. Disse quindi ai suoi servi: «Le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete». E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti coloro che trovarono cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Ora il re, entrato per vedere i commensali, vi trovò un uomo che non indossava l'abito da nozze, e gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze?» E quegli rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servi: «Legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti, poiché molti sono chiamati ma pochi eletti». La parabola continua dicendo che il re non perdonò gli invitati, non chiuse un occhio, ma li punì severamente. Inoltre, per la gioia del figlio, il re invitò altri meno degni, i quali accettarono. Le nozze del figlio del re sono talmente serie che chiunque si presenta non accettando le regole viene espulso. Le regole per entrare nel regno di Dio sono la confessione di peccato e l'accettazione della salvezza come dono. Questo è il senso della parabola delle nozze, una parabola dalle apparenti uccisioni assurde. Assurde come in apparenza è stata assurda quella del figlio di Dio morto in croce. Ma come la morte di Gesù sulla croce è stata la morte più importante e la più significativa, così le morti apparentemente assurde dei figli di Dio che annunciano fedelmente il Vangelo hanno uno scopo eterno e glorioso. Essi hanno messo in mostra una volta per sempre la ragione della condanna dei malvagi, ma soprattutto hanno imitato il loro Signore e Maestro, e non vi è onore più grande. Novembre 2005, Ellero.